Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. Quarta puntata. Il mattino dopo mi svegliai alle 0800, fratelli, e dato che mi sentivo ancora sgarrettato e sbasito e fanè, e avevo i fari appiccicati insieme da una sonnocolla cinebrivido, pensai che a scuola non ci sarei andato. Pensai che sarei rimasto ancora un piccolo poco nel letto, diciamo un paio d'ore, e poi mi sarei vestito per benino e con comodo, mi sarei fatto magari anche uno splash nel bagno, e poi mi sarei fatto un buon cià forte e cinebrivido e anche dei toast, e avrei snicchiato la radio o letto la Gazzetta tutto solicello. E nel pomeriggio, se ne avevo ancora voglia, avrei potuto pistonare fino alla vecchia sculcuola per vedere quel che combinavano in quella sede di inutile cultura friggibuco o fratelli. Sentii il mio papà che borbottava e scalpicciava e poi se ne pistonava alla fabbrica di tinture dove lui sgroppava. E poi mamma mi chiamò con una ciangotta molto rispettosa, come faceva sempre da quando ero diventato grande e robusto. «Sono le 8 passate, figliolo. Farai tardi di nuovo». Così io risposi, mi fa un po' male il planetario. Lasciami stare che cerco di dormire ancora un po' per farmelo passare, così oggi pome sarò più sviccio. Snicchiai che lei faceva una specie di sospiro, poi disse, allora ti lascio la colazione nel forno, figliolo, perché devo uscire subito anch'io. Ed era vero, dato che c'era questa legge, che chiunque non fosse un bambino, o non avesse un bambino, o non fosse malato, doveva andare a sgroppare. La mia mamma lavorava in uno di quegli statal market, come li chiamavano, e riempiva gli scaffali di minestre e piselli in scatole e tutte quelle sguanate. Così snicchiai che sbatteva un piatto nel forno, e poi si metteva le scarpe, e poi pigliava il cappotto da dietro la porta, e poi sospirava di nuovo, e poi disse «Vado, figliolo!» Ma io finsi d'essere già in sognolandia, e poi mi addormentai sul serio, e feci un sogno strano, ma che sembrava vero, dove c'entrava il mio soma Giorgi. In questo sogno, lui era molto più vecchio e più duro e furbo, e stava sprolando di disciplina e di obbedienza, e di come tutti i malcichi sotto di lui dovevano filar dritti e scattare sull'attenti come fossero nell'esercito. E c'ero io, in riga con gli altri, che dicevo sì signore e no signore, e poi locchiai chiaramente che Giorgi aveva quelle stellette sulle mestole ed era come un generale. E poi portò con sé il vecchio Bamba con una frusta, e Bamba era molto più bigio e aveva i capelli grigi e pochi zughi, come l'occhiai quando lui fece una gufata guardandomi. E poi il mio soma Giorgi disse, indicandomi col dito, «Quell'uomo ha le palandre sudice piene di sguana». Ed era vero. Allora io scricciai, «Non picchiatemi, fratelli, ve ne prego, non picchiatemi!» e cominciai a correre. E correvo tipo in circolo e Bamba dietro, gufando a più non posso e facendo schioccare la frusta. E ogni volta che mi pigliavo un gran festone cinebrivido con questa frusta, c'era un campanello elettrico che trillava molto forte. E anche questo campanello era una specie di dolore. Allora mi svegliai guizzo guizzo col cuore che faceva boom boom boom. E naturalmente il trrr del campanello c'era davvero. Ed era il campanello della nostra porta. Io volevo far credere che non ci fosse nessuno in casa, ma il trrrr continuava, e poi una ciangotta gridò attraverso la porta. «Andiamo, andiamo! Vieni ad aprire! Lo so che sei a letto!» Riconobbi subito quella ciangotta. Era di P.R. Deltoid, un nome ben stronzo quello lì, che chiamavano il mio consigliere post-correzionale. Un martino con un sacco di lavoro e con centinaia di nomi sul taccuino. Io gridai «Eccomi, eccomi, ecco!» con una ciangotta piena come di dolore, e scesi dal letto e mi avvolsi, o fratelli, in una meravigliosa vestaglia tipo seta, con dei disegni di grande città sparsi dappertutto su questa vestaglia. Poi infilai le patte in comodissime toffole di lana, mi pettinai il mio bel criname e fui pronto per P.R. Deltoid. Aprì e lui si trascinò dentro con un'aria tutta scombinata, un vecchio scuffio sbrindellato sul planetario e un impermeabile sudicio. «Ah, Alex, ragazzo mio», mi disse, «ho incontrato tua madre, già. Mi ha detto qualcosa di un dolore da qualche parte, già. Quindi niente scuola». «Un mal di testa piuttosto intollerabile, fratello, signore», dissi con la mia ciangotta più signorile, Credo che questo pomeriggio mi passerà. Oh, certamente questa sera, già, disse Pierre Deltoid. È un gran momento quando arriva la sera, ragazzo Alex? Siediti, disse. Siediti, come se quello fosse il gabbione suo e io il suo ospite. E lui sedette in quella bigia poltrona a dondolo del mio papà e cominciò a dondolarsi come se fosse per quello che era venuto. Io dissi: una tazza di vecchio cià, signore, tè, voglio dire. Non ho tempo, disse, e si dondolava, dandomi la vecchia occhiata obliqua di sotto le sopracciglia aggrottate, come se avesse tutto il tempo di questo mondo. Non ho tempo, già, disse, da tonno. Così posai la teiera. Poi dissi: a cosa devo l'estremo piacere? C'è qualcosa che non va, signore? Che non va? Disse lui, guizzo e furbastro, e s'era come ingobbito mentre mi guardava, sempre dondolandosi su e giù. Poi gli caddero gli occhi su una pubblicità della Gazzetta che stava sul tavolo, una bella quaglia gufante con i tuberi all'aria, oh fratelli, per reclamizzare gli splendori delle spiagge jugoslave. Poi, dopo essersela divorata in due bocconi, disse: «Perché pensi che ci sia qualcosa che non va? Forse che hai fatto qualcosa che non avresti dovuto fare? Eh?» «Era solo un modo di dire», dissi, «signore». «Beh», disse P.R. Deltoid, «allora, per modo di dire, ti avverto di stare attento, piccolo Alex, perché la prossima volta, come sai benissimo, non si tratterà più del correzionale. La prossima volta saranno le grandi sbarre e tutta la mia fatica sarà stata sprecata. Se tu non hai un briciolo di considerazione per il tuo orribile io, potresti almeno averne un poco per me, visto che mi son dato tanto da fare». Fanno un gran segnaccio nero, te lo dico in confidenza, per ognuno di quelli che non riusciamo a recuperare. Vale a dire che per noi è un grosso fiasco quando uno di voi va a finire col vestito a strisce. Non ho fatto nulla che non avrei dovuto fare, signore, dissi. I rozzi non hanno nulla da dire su di me, fratello, signore, voglio dire. Non parlarmi di rozzi o non rozzi, disse Pierre Deltoid, con l'aria molto annoiata, ma sempre dondolandosi. Se la polizia non ti ha ancora acchiappato, non vuol mica dire, come sai benissimo, che tu non abbia fatto qualcosa di brutto. C'è stato un po' di zuffa ieri notte, non è vero? C'è stato un po' di confusione con rasoi e catene di biciclette e roba simile. Un amico di un certo ragazzo grasso è stato raccolto da un'ambulanza vicino alla centrale elettrica ed è stato portato all'ospedale. Era tutto tagliuzzato, già, ed è stato fatto il tuo nome. La notizia mi è arrivata dalle solite fonti. E si è parlato anche di certi amici tuoi. Pare che ieri notte ci siano stati un bel po' di zozzerie. Oh, nessuno può provare niente a carico di nessuno, come al solito. Ma io ti ho voluto avvertire, piccolo Alex, dato che sono e sono sempre stato un tuo buon amico. L'unico in questa comunità di gente marcia e malata che voglia salvarti da te stesso. E io gliene sono sinceramente grato, signore, dissi. Sinceramente grato, eh? Disse con una certa ironia. Beh, sta solo attento, ecco tutto. Già, noi sappiamo più di quello che credi, piccolo Alex. Poi disse, con una ciangotta molto sofferente, ma sempre dondolandosi, ma che avete tutti quanti? Non facciamo che studiare il problema, ed è quasi un secolo che lo studiamo, accidenti, ma i nostri studi non vanno molto avanti. Qui tu hai una bella casa, dei buoni genitori che ti vogliono bene, ed hai anche un cervello che funziona, cos'hai che ti rode dentro? Il diavolo! Nessuno può dire nulla di me, signore, dissi. Ormai è un bel po' che i rozzi non mi mettono le granfie addosso. È questo che mi preoccupa, sospirò Pierre Deltoid. Un po' troppo tempo perché la cosa non mi puzzi. Secondo i miei calcoli dovresti ormai essere maturo. È per questo che sono venuto ad avvertirti, piccolo Alex, di tenere la tua bella proboscidina fuori dai pasticci, già. Sono stato chiaro? Come l'acqua di fonte, signore, dissi. Chiaro come il cielo azzurro dell'estate. Può contare su di me, signore. E gli feci un sorriso con tutti gli zughi. Ma quando lui smammò e io mi misi a fare questo ciò bello forte, ridevo tra me, pensando a quello di cui si preoccupavano P.R. Deltoid e i suoi soma. D'accordo? Io faccio male, pensavo, con questi festaggi e questi lavoretti con la lisca e il vecchio va e vieni, e se mi rabattano, beh, peggio per me, oh fratellini. Capisco che non si può mandare avanti una nazione se tutti quanti i martini si comportano come faccio io la notte. Così, se mi rabattano e faccio 3 mesi in un sosto, e altri 6 in un altro, e poi, come mi avverte gentilmente Pierre Deltoid, nonostante la gran tenerezza delle mie primavere, fratelli, la prossima volta mi ficcano direttamente nel grande zoo, beh, io dico, giusto. Ma è un gran peccato, signori miei, perché io semplicemente non sopporto di star rinchiuso. Ragion per cui farò di tutto nel futuro che tende verso di me le rose braccia prima che lo sgarzo subentri o il sangue canti la sua ultima strofa tra un groviglio di metalli contorti sull'autostrada perché non mi rabattino mai più. E questo è parlar chiaro. Ma, fratelli, questo mordersi le unghie dei piedi su qual è la causa della cattiveria mi fa solo venir voglia di gufare. Non si chiedono mica qual è la causa della bontà. E allora perché il contrario? Se i Martini sono buoni è perché così gli piace, e io non interferirei mai coi loro gusti, e così dovrebbe essere per l'altra parte, e io patrocinavo l'altra parte. In più, la cattiveria viene dall'io, dal te o dal me, e da quel che siamo, e quel che siamo è stato fatto dal vecchio zio, oddio, ed è il suo grande orgoglio e consolazione. Ma i non io non vogliono avere il male, e cioè quelli del governo e i giudici e le scuole non possono ammettere il male perché non possono ammettere l'io. E la nostra storia moderna, fratelli, non è la storia di piccoli io coraggiosi che combattono queste grandi macchine? Parlo sul serio, fratelli, quando dico questo. Ma quello che faccio, lo faccio perché mi piace farlo. Così ora, in quel ridente mattino d'inverno, bevvi il mio cià forte col mommo e un mucchio di zucchero e tirai fuori dal forno la colazione che la mia povera mamma mi aveva preparato. Era un uovo fritto, unico e solo, ma io mi feci un toast e mangiai insieme uovo, toast e marmellata mentre leggevo la Gazzetta. La Gazzetta parlava come al solito di ultraviolenza e rapina nelle banche e scioperi e calciatori che rendevano tutti paralitici per il terrore, minacciando di non giocare la prossima domenica se non ricevevano paghe più alte, i cattivelli. E c'erano anche altri viaggi spaziali e schermi per la TV stereo più grandi e offerte di pacchetti di detergenti gratuiti in cambio di etichette di minestra in scatola, offerta straordinaria per una sola settimana, il che mi faceva gufare. E c'era un tamagno grande articolo sulla gioventù moderna. Parlavano di me? Così feci un bell'inchino, ghignando da scardinato, di qualche Martino calvo e intelligentone. Me lo lessi con cura, fratelli, slurpando il vecchio cià tazza dopo chicchera dopo ciotta e sgranocchiando trincione di toast inzuppato nella marmellina e nel coccovetto. Questo Martino così istruito diceva le solite trucche sulla mancanza di autorità dei genitori e la carenza, come diceva lui, di insegnanti cinebrivido che avrebbero dovuto togliere ogni velleità ai loro innocenti pupilli a forza di bastonate fino a farli chiedere pietà. Tutte stronzate di questo genere. Però era bello sapere che noi si faceva notizia tutti i giorni, oh fratelli. Di articoli sulla gioventù moderna ce n'erano sempre. Ma la trucca migliore che avessero mai stampato sulla vecchia Gazzetta era di un bigio papalone col collare da cane che diceva come, secondo la sua stimatissima opinione, e lui sprolava da uomo di zio, era il diavolo che si trovava ovunque che si scavava la strada dentro la giovane carne innocente. Ed era il mondo degli adulti che doveva assumersene la responsabilità per via delle loro guerre, delle bombe e tutte quelle assurdità. Ora sì che andava bene, lui sì che sapeva di cosa parlava, dato che era un uomo di Dio, e dunque noi malcichi eravamo innocenti e nessuno poteva darci la colpa. Bene, bene, bene. Dopo che il mio stomaco pieno e innocente ebbe fatto urk urk un paio di turne, cominciai a tirar fuori le palandre da giorno e aprii la radio. C'era della musica. Un migno quartetto d'archi, fratelli, di Claudius Birdman, che io conoscevo benissimo. Mi feci una gufata, però, ripensando a quello che avevo letto una volta in uno di questi articoli sulla gioventù moderna. Su come la gioventù moderna sarebbe stata migliore se si fosse riusciti a incoraggiare l'amore per le arti. La grande musica diceva, e la grande poesia avrebbero calmato la gioventù moderna e avrebbero inserito la gioventù moderna nella società civile. Inserito nelle mie berte sifilitiche, la musica mi rendeva ancor più sviccio, fratelli. Mi faceva addirittura sentire come il vecchio zio in persona, pronto a far tuoni e saettame e ad avere martini e quaglie scriccianti in mio ha-ha potere. E quando mi fui un po' sgromato la biffa e le granfie e mi fui vestito, le mie palandre da giorno erano quelle che portavano gli studenti, i vecchi tubi blu col maglione con su un A per Alex, pensai che era finalmente l'ora di pistonare alla disco boutique. Avevo le tasche piene di Bella Maria per vedere se c'era quel padellone che avevo ordinato da lungo tempo, la nona di Beethoven, cioè, incisa dalla Eschscham Sinfonia diretta da L. Muhaivir. Così uscì, fratelli. Il giorno era molto diverso dalla notte. La notte apparteneva a me e ai miei Soma e a tutti gli altri moschetti, e i bigi bourgeois se ne stavano rintanati a rimpinzarsi di mondovisioni stronze. Ma il giorno era fatto per i bigi, e di giorno sembrava che ci fossero molti più rozzi o cerini in giro. Presi l'autobus all'angolo e andai nel center. Poi tornai indietro a piedi fino al Taylor Place, dove c'era la disco boutique che io onoravo con la mia inestimabile preferenza, oh fratelli. Aveva un nome friggibuco, Melodia, ma era un sosto cinebrivido e di solito piuttosto guizzo a procurarsi le novità. Dentro ci trovai due sole clienti, un paio di giovani mammole che leccavano dei gelati da passeggio, con tutto che si era in inverno e faceva un freddo mortale, e frugavano fra i nuovi pop dischi. Johnny Burnaway, Stash Crow, i Mixers, rilassatevi un poco con Ed e Id Molotov e tutte quelle altre sguanate. Queste due mammole non potevano avere più di 10 anni e anche loro, come me, avevano deciso di prendersi un giorno di libertà dalla vecchia sculcuola. Si vedeva benissimo che si credevano già delle quaglie adulte, col vecchio colpo d'anca in omaggio al vostro fedele narratore, fratelli, e i tuberi imbottiti e le lerfie tutte impiastricciate di rosso. Io mi diressi al banco, rivolgendo il mio più cortese sorriso a pieni zughi al vecchio Andy, sempre cortese anche lui, sempre servizievole, un tipo di Martino cinebrivido, anche se calvo e secco secco. Lui disse: «Ha-ha! Lo so quello che vuole! Buone notizie! Buone notizie! È arrivato!» E con granfie da gran direttore d'orchestra che battevano il tempo andò a prenderlo. Le due giovani quaglie cominciarono a ridacchiare come fanno a quell'età e io le fissai con fari gelidi. Andy tornò guizzo, sventolando la grande copertina bianca e lustra della nona che ci aveva sopra, fratelli, la tremendissima biffa irsuta e accigliata di Ludwig van in persona. «Ecco qua», disse Andy, «gli diamo il giro di prova?» Ma io avevo una gran voglia di snicchiarmelo da solo sul mio stereo. Mentre tiravo fuori i denghi per pagare, una delle piccole quaglie mi disse: «Chi è che hai guantato, bimbo? Che grandone, che unico!» Anche queste giovani quaglie avevano un loro modo di sprolare. «I Celesti 17? Luke Stern? Goggly Goggle?» E tutte e due ridacchiavano, dimenando i fianchetti. Allora mi venne un'idea che per poco non mi fece svenire dall'estasi, oh fratelli, e rimasi senza fiato per quasi 10 secondi. Tornai in me e misi in mostra gli zughi da poco ripuliti e dissi: «Che ci avete a casa per suonarci i vostri gargarismi, sorelline?» Perché l'occhiai che i dischi che compravano erano queste piccole trucche pop da ragazzini. «Scommetto che avete quei minuscoli giradischi da picnic?» E loro sporsero il labbro tipo broncio. «Venite con lo zietto», dissi, «a sentirli come si deve. Venite a sentire le trombe degli angeli e i tromboni dei diavoli. Siete invitate». E mi inchinai, tipo. Loro ridacchiarono di nuovo e una disse: «Oh, ma ci abbiamo così fame! Oh, ma ci abbiamo da mangiare!» L'altra disse: «Ha detto proprio giusto, ha detto! Mangiate con lo zietto, dove volete!» Allora si sentirono delle gran sofistone, il che era un po' patetico, e con gnaule da grandame cominciarono a parlare di Ritz, e di Bristol, e di Hilton, e del ristorante Gran Turco. Ma io ci misi un freno, dicendo: «Seguite lo zietto, e le condussi al pasta parlor dietro l'angolo e lasciai che si rimpinzassero di spaghetti e salsicce e paste alla crema e banana split e cioccolata calda finché quasi mi venne la nausea a me, fratelli, che me l'ero sbrigata frugalmente con una trincia di prosciutto col pepe di Cayenne. Queste due giovani quaglie si somigliavano molto, ma non erano sorelle. Avevano le stesse idee o la stessa mancanza di medesime e lo stesso colore di capelli, una tinta tipo paglia. Beh, quel giorno sarebbero cresciute davvero. Sarebbe stata una gran giornata. Niente scuola quel pomeriggio, ma avrebbero imparato qualcosa lo stesso, con Alex come maestro. Si chiamavano Marti e Sonietta, mi dissero, due nomi abbastanza scardinati e di gran moda tra i bambocci. Così dissi, ben ben, Marti e Sonietta, è giunta l'ora della grande audizione. Venite. Quando furono fuori al freddo, non vollero mica prendere l'autobus. Oh no, loro viaggiavano solo in taxi. Così gli cavai l'ospizio e chiamai un taxi dal posteggio vicino al center. L'autista, un tipo bigio con i basettoni e delle palandre tutte macchiate, disse «Non voglio scherzi con i sedili, niente rasoiate, ho appena cambiato la tappezzeria». Calmai le sue paure stronze e partimmo verso il Municipal Flat Block 18A, con queste due sfacciate quagliette che ridacchiavano e bisbigliavano. Così, per farla breve, arrivammo, oh fratelli, e io le guidai su fino al 10-8, e loro salirono gufando e ansimando, e poi avevano sete, dissero. Così aprii lo scrigno del tesoro e detti a queste mammole decenni un vero scotch cinebrivido per uno, ma ben riempito di frizzante soda pizzicorino. Loro sedettero sul mio letto, ancora disfatto, con un gran dondolio di gambe, gufando e lappandosi gli highball mentre io suonavo i loro patetici dischetti sul mio stereo. Era come glutare qualche sciroppo da bambino, era, dentro bellissimi e meravigliosi e costosi calici d'oro. Ma quelle facevano ho ho ho e dicevano arci arci e super sano e altre strambissime mottate che erano di moda in quei gruppi giovanili. Mentre io facevo girare queste sguanate, le incoraggiavo a bere e farsi un altro whisky, e loro mica erano restie, fratelli. Così, quando ebbi suonato un paio di volte quei patetici dischi pop, ce n'erano due, Naso di miele cantato da Ike Yard e Notte dopo giorno dopo notte, miagolato da due orribili eunuchi sbertati di cui ho dimenticato i nomi, quelle erano vicine alle crisi che pigliano queste giovani quaglie, tipo isterismo, col fatto che c'ero io nella stanza e loro che saltavano su e giù sul mio letto. Ciò che accadde quel pomeriggio non c'è bisogno di descrivervelo, fratelli, perché tanto ve lo siete già immaginato. Quelle due, gufando da schiattare, si trovarono senza palandra in men che non si dica, e senza dubbio gli sembrava il colmo dello spasso l'occhiare il vecchio zio Alex, tutto spalandrato e provvisto di manico, che iniettava l'ipodermica come un gran bravo dottore, e poi che si scaricava anche lui nella granfia la vecchia dose d'umor di tigre. Poi tirai fuori la meravigliosa nona dalla sua copertina, così che Ludwig van era spalandrato pure lui, e misi la puntina sull'ultimo movimento, che era tutto un'estasi. Eccoli qua, i contrabbassi che uscivano da sotto il letto per sprolare al resto dell'orchestra, e poi la ciangotta umana che entrava per dire a tutti d'essere gioiosi, e poi quel motivo magnifico, splendido, tutto sulla gioia, che era un raggio luminoso che veniva tipo dal cielo. E poi sentii le vecchie tigri saltare dentro di me e saltai addosso a queste due quagliette. Questa volta non gli sembrò più così spassoso e smisero di scricciare per il giubilo e dovettero sottomettersi agli strani e bizzarri desideri di Alessandro Magno che, tra la nona e l'iniezione, erano grimpanti e sbordati e parecchio frenetici, oh fratelli, ma erano tutte e due molto, molto ubriache e non sentirono quasi nulla. Quando l'ultimo movimento ebbe fatto il giro per la seconda volta, con tutto il suo fracasso e il suo scriccio sulla gioia, gioia, gioia, gioia, queste due giovani mammole non erano più le grandame sofistone di prima. Stavano come aprendo gli occhi su cosa era stato fatto alle loro migne personcine e dicevano che volevano andare a casa e che io ero una bestia feroce. Avevano l'aria d'essere state in mezzo a qualche grossa barandana, e infatti così era, ed erano tutte imbronciate e ammaccate. Beh, se non volevano andare a scuola, dovevano venire istruite in qualche modo, e istruite erano state istruite. si rimettevano le palandre scricciando e frignando e mi facevano pum pum pum coi pugnetti mentre io giacevo sul letto, sporco e spalandrato e sgarrettato e fanè. Questa sonietta scricciava «Bestia, animale, essere immondo!». Così lasciai che si prendessero le loro carabattole e se ne andassero, e quelle uscirono dicendo che mi avrebbero mandato sui cerini e quel genere di sguanate. Erano ancora per le scale che io mi addormentai di colpo, col fracasso e gli urli di gioia, gioia, gioia, gioia, ancora sullo stereo. Marco Cavalcoli ha letto Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.